Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Una buona giornata a te Carlo, una buona giornata a tutti gli ascoltatori in questa domenica in cui siamo in realtà un po' distanti, no? Ma insomma adesso poi rispieghiamo tutto. Come va? Bene, va bene, va benissimo, anzi finalmente ti vedo, finalmente sono in radio, finalmente vedo Carmelo, finalmente vedo Danilo, quindi sono felicissimo, ovviamente stando a distanza, ovviamente con le mascherine qui in sede e ovviamente anche con una nuova spugnetta, ho una spugnetta dedicata, perché ognuno ha la propria spugnetta nello studio, di modo che non ci attacchiamo il Covid a vicenda, anche se siamo in due studi differenti, siamo finalmente, diciamo, bene o male nello stesso luogo fisico e quindi sono molto molto contento e saluto anche ovviamente tutti gli ascoltatori e buona domenica. Sai come si dice in Toscana? È meglio averne paura che buscarne e quindi alla fine ci hanno messo in due studi con spugne diverse. In realtà dobbiamo dire anche una cosa però, la confessiamo subito, certo. Carlo, anche oggi non siamo realmente in studio, ci siamo stati qualche giorno fa. Perché... oggi è una registrata in realtà e perché in studio siamo arrivati a mezzanotte, è tardissimo, quindi registriamo di notte per poi andare in diretta il sabato e la domenica. Perché poi domani andiamo all'idroscalo in realtà. Esatto. Facciamo un tuffettino qua in zona. Beh no, questo weekend, diciamo la verità, questo weekend non siamo in presenza, quindi non abbiamo i soliti giochi, non abbiamo fatto il quiz di sabato, oggi non faremo l'indovinello sul personaggio della settimana. Ciò non toglie che comunque siamo qui con voi con una puntata del tutto nuova che produciamo apposta per questo weekend. Parleremo di un sacco di argomenti diversi e ovviamente non ci faremo mancare però la presentazione del libro della settimana, come ogni weekend ormai ci hai abituato a fare. O è un libro, vero, o è un film, o è una qualche novità che compare da qualche parte, quindi assolutamente anche in questo weekend io vorrei sapere che cosa hai letto e che cosa ci presenti. Molto volentieri, oggi vi consiglio un libro stupendo veramente per proseguire nella mia personalissima serie "Voglio leggere un libro, ma non ho voglia di leggere un libro. Mi stufo, sono inquieto." È il libro delle ore felici di Giacominus Gainsborough, edito Rizzoli di Rebecca Dautremer, che è una gigantesca e famosissima illustratrice francese. Sì, è un cosiddetto albo illustrato. Ma la domanda che vi state certamente ponendo risponde l'autrice stessa già nel testo introduttivo di presentazione. Se sei un adulto, starai pensando che questo libro non è adatto a te perché è pieno di illustrazioni. Ma che idea assurda! Certo che questo libro è anche per grandi, scrive la Dautremer, ma è anche per i piccoli, nonostante l'uso di alcune parole non semplici, ma è sempre lei a tranquillizzare il giovane lettore dicendogli: sono sicura che troverai vicino a te un adulto in grado di spiegartela, e aggiunge che poi è quello che mi auguro, visto che è un libro da condividere. Ma il consiglio migliore che dà la Dautremer è: ti consiglio di sfogliarlo con calma, ci sono tante cose da scoprire, pian piano. Perché è davvero così, le pagine sono poche, una cinquantina, le parole sono giuste, molto contenute, ma non per questo insipide, anzi per nulla. Le illustrazioni sono pazzesche, incantanti, le potresti guardare per ore e voler riguardarle più volte. E la storia è quella di Giacominus, è la storia di una vita così specifica che è quella di un coniglio, ma così metaforica che è quella di ognuno di noi. Le ore felici di Giacominus e dell'attesa. Ecco, forse è un libro sull'attesa, anche del momento giusto, ma l'attesa intesa come preparazione, come crescita personale, come maturazione, non l'attesa intesa come parcheggio e indolenza. Vi lascio con delle parole dell'autrice. Come le ore felici? diciamo pure una vita intera, quella di Giacominus Gainsborough, le foglie d'autunno nel parco, la pioggia, la bassa marea, un capitombolo, un arrivederci sul molo, un buongiorno in un giardino di pietre, un picnic, qualche gita e l'ombra fresca sotto il mandorlo, tutto qui, una vita. Carlo, devo dire che hai ragione, io adesso stavo guardando alcune immagini di questo volume, le illustrazioni sono pazzesche, adesso io non l'ho ancora letto, quindi non so, appunto non mi sento di commentare su l'attesa, tutto quello che tu ci hai detto. Sicuramente le illustrazioni che chiunque può vedere su internet nelle presentazioni sono incredibili, io rimango sempre di stucco davanti alla possibilità, alla capacità di certe persone di realizzare certi disegni, io non vero, cioè, essendo verissimo. Una che... disegnare bene no, è un'altra cosa. Ma poi sono pieni di particolari, quindi è molto vera questa cosa che dice l'autrice, che va sfogliato con calma. Io l'ho letto anche insieme ad alcune mie nipotine ed è bello perché ogni volta poi scopri, ma guarda là in fondo, dietro a quell'albero, ci sono due che poi tornano nell'immagine più avanti. Insomma, è emozionante, è molto bello. Poi insomma la Dautremer ne ha scritti, ne ha illustrati tantissimi, quindi se non vi interessa questo, potete spaziare anche su altri. Potete poi riprenderli, perché è bello di questi libri che proprio perché hanno queste illustrazioni, sì, come dicevi tu, c'è scritto dai 7 anni di lettura. Forse a quell'età si sente anche più la narrazione, un po' dopo vai a guardare proprio il particolare, poi ci ritornano anche i bambini al particolare, ma insomma è una narrazione che inizia a 7 e finisce a 700, esatto. Se ci potessimo arrivare. Da 7 a 700 anni, anzi. Che dici? Molto giusto, molto giusto. Però le case editrici non sarebbero contente, ne stamperebbero uno per generazioni, non avrebbero altro di che stampare. Comunque, va bene, dicevo delle tante notizie e questioni e novità e avventure che vi racconteremo in questa puntata. Tra pochissimo andremo a conoscere i prodotti a marchio, sentite bene, chi è il padrone. Io voglio chiedere chi ha inventato questo nome, il marchio chi è il padrone, chi l'ha tirato fuori? In realtà è una traduzione da un marchio francese, ma ovviamente adesso non vogliamo anticiparvi niente, ne parleremo dopo, abbiamo un bell'ospite, Enzo Di Rosa, che ci parlerà esattamente di questo sistema, perché è proprio un sistema che parte dal basso, in qualche modo decidere che siano gli stessi consumatori a decidere come produrre, addirittura che farina usare. Ma insomma ne parliamo dopo. Esatto, ne parliamo dopo. Come parleremo in questa puntata anche di videogiochi e addirittura di videogiochi con il direttore del museo dei videogiochi, VGAMUS, Video Game Museum, che sta a Roma. Non è a Seattle, non è esatto, a Los brava. Angeles, non è, no, sta a Roma. È alla Garbatella, no, non è vero, ho detto una zona a caso. Sono molto contento anche di questo ospite perché ho anche delle domande da fare da parte del mio fidanzato. Ah, hai capito, vorrebbe sapere come risolvere qualche... Sta giocando a The Last of Us 2 che è appena uscito e quindi insomma io non sono un grande esperto, ma ci faremo spiegare tutto da lui. E poi ovviamente parliamo con uno studente che così è salita alle cronache recentemente per aver portato come tesina alla sua maturità una app antibullismo, e da lui vorremmo sapere un po' come funziona, come nasce, quando poi sarà disponibile magari, no, sui vari store, insomma. Oh mamma mia, ho bisogno di bere un bicchiere d'acqua. Allora dicevo, da lui vorremmo sapere un po' come funziona e quando sarà disponibile e vero, come ci è arrivato, vero. Cioè se lui stesso ha avuto problemi di questo tipo o se li ha visti, no, nella sua scuola, tutte questioni collegate poi al mondo anche ampio di internet e dei ragazzi su internet. I ragazzi ultimamente sono stati tantissimo su internet, l'abbiamo detto mille volte, è stata la loro salvezza, ci hanno fatto lezione, ci hanno fatto tutto nei mesi del lockdown, ma magari si sono anche imbattuti in situazioni complicate. Vorremmo un po' parlare con degli esperti per capire, no, come possono essere gestite queste situazioni. Giusto. Carlo, siamo giunti al momento quasi della viabilità, credo. Assolutamente. Non so, guardiamo Carmelo Lauricella in regia cosa ci dice. Forse sì, dobbiamo solamente ricordare che oggi non potete chiamare in radio perché siamo appunto registrati, ma tutta la puntata è una puntata nuova. Viabilità. Si può fare. si può fare. Cronache da un paese migliore. Dopo la viabilità parliamo per l'appunto, Carlo, di quello di cui dicevamo prima, dei prodotti a marchio Chi è il padrone, che ha un nome molto particolare. Adesso sentiamo un po'. Anche un po' impegnativo, devo dire. Anche un po' impositivo. Sì. Cioè, subito ti domanda. Poi ti fa una domanda. Cioè, non è che ti dà la risposta, ti fa la domanda. Giusto. Anche questo è, credo che sia l'unico marchio che chiude con un punto di domanda. Perché di solito i marchi sono affermativi. Invece punto esclamativo. Esatto. È un marchio interrogativo. Enzo Di Rosa, fondatore in Italia di Chi è il padrone, che è il nome della marca del consumatore. Insomma, ci dica lei, Enzo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, che cos'è questa, no, questa iniziativa? Perché parte come un'iniziativa e poi arriva al prodotto a marchio Chi è il padrone. Certo. Beh, bisogna fare solo una piccola cronistoria molto velocemente. L'iniziativa nasce in Francia nel 2016 con C'est qui le patron, proprio in un momento particolare, diciamo, del settore caseario. I tassi di suicidio degli allevatori erano molto molto alti, più del 30% rispetto alla media della popolazione. Perché? Perché un litro di latte venduto a meno di 80 centesimi era la causa. Se non c'è margine di guadagno, il consumatore pensa di aver fatto un affare, ma in realtà le condizioni diventano davvero pessime fino a logorare la qualità della vita di chi poi da quel prodotto ne trae uno stipendio. Da lì nasce la marcia dei 10.000, questo è il numero dei consumatori che hanno in breve aderito all'iniziativa, che in solo 3 anni hanno saputo ispirare le scelte di acquisto di oltre 15 milioni di consumatori, dati Nielsen ormai certificati. Stiamo parlando sempre di Francia, giusto? Sto parlando della Francia, certo. Punti vendita della GDO, insomma, ecco. Nasce da lì e diventa in Ma breve. Quindi lì certifica, diciamo, un corretto corrispettivo al produttore? Cosa certifica questa, no, questa attenzione? Devo un po' spiegare un po' il meccanismo. Sì, sì, ce lo spieghi. No, pensavo ai consumatori francesi, quindi in quella maniera chiedevano venisse... No. Sì, certo, chiedevano ovviamente a gran voce di entrare nella co-creazione del prodotto, proprio per venire incontro alle richieste dei produttori che il mercato non era in grado di risolverla, insomma, no? Questa problematica del prezzo. E quindi hanno detto i consumatori: ma allora noi da consumatori finali abbiamo il diritto e anche il dovere di entrare dentro il prodotto, di conoscerne le caratteristiche e semmai anche di, insieme ai produttori, di incominciare a capire come si può fare un buon prodotto di qualità e quanto quella qualità deve essere remunerata al giusto prezzo per chi, diciamo, produce quella qualità. Da lì nasce la marca del consumatore. Ecco, ma come funziona questo censimento? Non è un censimento, è in realtà un modo attraverso il quale i consumatori interagiscono con lo strumento del questionario, che è una scheda tecnica che viene redatta da parte dell'associazione insieme, quindi con i produttori, le aziende, in un tavolo rotondo dove si vengono, diciamo, a sviscerare un po' tutti gli aspetti, no, socio-economici, ambientali di ogni prodotto, e poi attraverso il questionario con delle domande multiple i consumatori hanno la possibilità a ogni domanda di valutare l'impatto socio-economico ambientale di ogni risposta. Quindi in termini di centesimi costruiscono il prodotto e vedono anche dove i centesimi vanno a finire. e così possono scegliere l'origine delle materie prime. Ma ci fa esatto un esempio di domande di per questo esempio, questionario? Adesso noi sappiamo che è arrivata la pasta. È arrivata no? la pasta dei consumatori, 3.558 consumatori hanno votato le caratteristiche della nostra pasta ideale, quindi stabilendone le caratteristiche. In che modo? Attraverso il questionario hanno deciso in maniera collettiva l'82% il grano italiano, il 71% il giusto prezzo, cioè quanto deve remunerare il prodotto al produttore, hanno deciso l'agricoltura sostenibile, il 71%, hanno deciso il mulino all'interno del pastificio per una maggiore garanzia di tracciabilità e anche di qualità del prodotto, hanno deciso il più di 2/3 un'essiccazione lenta e a bassa temperatura, altri 2/3 di persone hanno deciso un sostegno alla transizione dall'agricoltura biologica all'agricoltura convenzionale, quindi creando un fondo per andare, cioè il contrario, da quella tradizionale a quella biologica, dal convenzionale al biologico. Ah, ok, niente. Ecco. Che è mezzo centesimo, anche un altro mezzo centesimo hanno deciso di creare un fondo di solidarietà per persone e famiglie in condizioni di fragilità, e poi hanno deciso ovviamente quanto è quindi la remunerazione al produttore e il prezzo finale, oltre alla confezione, hanno deciso una confezione in carta riciclabile. Ma mi scusi, ho bisogno di capire una cosa, come, nel senso che mi è molto chiaro, c'erano delle persone che si mettono insieme, compiono il questionario e decidono e dicono noi finalmente vogliamo mangiare della pasta che venga prodotta come diciamo noi, quindi con quel grano fatto così, pagato il giusto prezzo, con il mulino all'interno, ok. La prima domanda è, vince la maggioranza? Nel senso che se la maggioranza, quindi è semplice, e c'è la solita domanda, nel senso che va bene che uno vale uno, come ormai ci hanno insegnato, però a volte le maggioranze scelgono anche delle grandissime castronerie, giusto? Quindi è vincente, diciamo, quel meccanismo? Beh, guardi, a giudicare dei numeri, no? In Francia, lei prima non mi ha fatto completare il discorso, dopo 3 anni sono 170 milioni i litri di latte venduti, 200 milioni il volume d'affare prodotto dalla marca del consumatore, la nostra pasta in questo momento è agli scaffali di tutti i supermercati Carrefour, e non è così banale. No, no, è straordinario. Oggi, no, non è così banale remunerare oggi un prezzo per i produttori che è stato deciso dai consumatori, che è pari a 400 euro a tonnellata, che è più del 25% rispetto al prezzo medio di mercato. No, è ma io le sto dicendo di vendita consigliato che è di 1,07 euro. Io le sto dicendo che non è un prezzo da discount. Non è un prezzo da discount, ma non è neanche un prezzo con le caratteristiche, le qualità che ho appena elencato, no? Un prezzo, voglio dire, non sarebbe possibile con le caratteristiche richieste avere un prezzo più basso, no? Poi, cioè, se vogliamo fare un equilibrio, ovviamente dobbiamo mettere insieme le esigenze un po' di tutti. Poi però io mi domandavo una questione invece, che la pasta è già un prodotto elaborato rispetto al latte che lei ci portava come esempio, no, dell'inizio del tutto in Francia. Cioè il latte, ovviamente c'è il produttore e diciamo, e io ho, parte latte e arriva latte, è ovvio che in mezzo c'è la sterilizzazione, l'impacchettamento eccetera eccetera, ma sempre latte, non è un'elaborazione, non è lo yogurt, non è il formaggio, non è, no? Quindi ci sono direi filiere diverse, per cui ad esempio il vostro produttore di pasta deve garantire, immagino, se l'ho capito bene la logica, a chi compra la sua pasta che anche lui sta pagando il giusto a chi viene prima di lui in quella filiera, e quindi chi gli dà il grano, per esempio. Ma questo è lo spirito. Quando io dico il giusto prezzo ai produttori, è inteso a chi produce il grano, non all'azienda, quindi. Beh, anche a quello che fa la pasta, poi, quindi sia corretto, no, tutto il percorso. Il giusto prezzo è per il produttore. Cioè i consumatori si esprimono sull'origine della materia prima e chi la realizza, quindi chi è in prima linea a realizzare quel prodotto, quindi in questo caso l'allevatore che produce il latte, il produttore, perché guardi, la qualità di un prodotto parte dalla materia prima, no? E dai costi che sono imprescindibili di quella qualità, per cui se noi non interveniamo nel primo step, tutto il resto poi diventa insomma propaganda, insomma, ecco, cioè uno slogan più che altro, no? Accattivante, ma non può non tener conto di quei fattori, ed è questo lo spirito dell'iniziativa: entrare dentro il prodotto, ma sentendo chi produce quel prodotto, quali sono le problematiche, e venire incontro, e allo stesso tempo definire insieme a lui quali potrebbero essere una serie di variabili di qualità e quindi anche di metodo di coltivazione. Si può con 2 euro diventare soci dell'associazione e quindi vivere, quindi oltre le quinte, quelle che sono le attività dell'associazione, e partecipare, e questa è la grande novità, per la prima volta in prima linea, quindi andare a visitare in campo la filiera. Ah, questo è molto interessante, molto interessante. Perché non è più delegato a terzi, cioè siamo noi. Ecco che cos'è quel punto interrogativo seguito da punto esclamativo, no? Ah, cioè, ok. Allora, ci dobbiamo salutare qui. Quindi abbiamo svelato anche la questione del chi è il padrone, punto interrogativo. Chi vuole avere un'idea appunto di come è costruito il sito e come poi si sono costruiti questi prodotti, la marca del consumatore.it. Enzo Di Rosa, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento, ci fermiamo, c'è grazie. GR24. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, e non ci devo riflettere, te lo dico a chiare lettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no. E ovviamente con questa musica arriviamo in Puglia, non potrebbe essere diversamente, e là c'è Alessandra Minervini, scrittrice, autrice di Bari, una guida. Buongiorno Alessandra. Buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno. Una guida per Bari, Bari una guida, comunque parliamo di guide turistiche, giusto e corretto? Sì, parliamo di guide turistiche perché il libro pubblicato da Odosso Edizioni, che è friulana, una casa editrice friulana, è una quindi casa editrice... è veramente cuce nord e sud questo libro, dai. Esatto, esatto. È dedita al racconto dell'Italia soprattutto e delle città che sono meno ancora non troppo frequentate dai turisti. Quindi da un lato sì, è una guida turistica, però dall'altro è anche un invito a cambiare un po' il giro, il solito giro che si fa in Italia, è scoprire delle città che ancora non sono totalmente conosciute o meta del turismo di massa. E però cerca anche, brava, fa parte di queste, ma non troppo poi, perché poi alla fine Bari negli ultimi anni è in grande spolvero, però questa guida sì. Propone anche qualcosa di più, diciamo, no? Cerca di mettere insieme sì. L'aspetto turistico a quello invece poi letterario, culinario, quindi culturale, esatto. Un po' più ad ampio spettro, ecco, un po' più moderno o contemporaneo, non lo so. La guida contemporanea è un po' diversa da quella passata, no? Tradizionale. Sì, infatti io lo considero, non solo la mia guida, ma anche le altre guide pubblicate dalla casa editrice, una sorta di quaderno di viaggio un po' alla francese, perché all'interno di questa guida potete scoprire aneddoti, leggende, caratteristiche di una città che diversamente non si trovano, quindi molto, molto diversa dalle guide istituzionali, quelle un poco più accademiche. Ci sono delle notizie storiche e architettoniche, però gli itinerari sono personali, cioè io, in questo caso io, accompagno il visitatore con il mio sguardo e anche un po' i miei ricordi della mia città verso appunto la scoperta di un mondo che coinvolge la narrativa, la musica, la storia, l'architettura, ovviamente il cibo e anche degli scorci molto naturali di Bari, perché sono molto legata alla mia città, anche per la parte meno urbanizzata, cioè quella più legata ai panorami, agli scorci, insomma, legati al mare, al tramonto, all'alba, quindi ci sono anche molti consigli instagrammabili. Infatti è organizzata per percorsi, vero, questa guida? Sì, per percorsi che magari alla fine ti portano appunto fuori città, magari? Sì, anche... Sì, la guida, tutte le guide sono in realtà legate al territorio più centrale delle città, però io mi sono concessa anche delle visite, ho concesso al visitatore delle visite anche in posti meno battuti del centro cittadino, quindi leggermente più lontani, però sempre legati a degli aspetti culturali caratteristici di Bari, come Torre a Mare per esempio, sì, che è un po' il posto dove i baresi anticamente andavano a villeggiare e che adesso invece è una sorta di ritrovo cittadino per consolarsi dal caldo, perché è proprio una, non è un paese, è un borgo, sempre una frazione, ecco, vicino a Bari, dove il mare sovrasta tutto, cioè praticamente c'è più mare che terra e quindi lì si va anche per assaggiare delle cose tipiche di pesce, famoso crudo barese. Beh, cioè, no, questo va bene, non ci faccia venire l'acquolina in bocca la domenica mattina, che poi tra un po' si avvicina l'ora di pranzo. Cioè, è vero che la domenica mattina a quest'ora magari la gente ha mangiato la brioche, però poi Senta, arriva anche il crudo di pesce. Ma lei cita diversi autori, non solamente di Bari, in questa guida, e sono anche, l'ho trovato molto bello, che sono anche semplicemente degli scrittori magari che sono passati di lì, che sono passati da Bari, oppure che hanno scritto di Bari, sia passati, sia non passandoci, e questo mi sembra anche uno sguardo diverso. Sì, ho inserito, ho voluto proprio creare una rete di storie che coinvolgono sia scrittori attuali, appunto viventi, operanti della Baresi, dai più famosi ai quelli un po' più legati al territorio, e poi invece sono andata a scoprire una serie di scrittori italiani che hanno visitato Bari in tempi non sospetti, elogiandola, ammirandola. Faccio un esempio, come Calvino. Esatto, così, come Italo Calvino, che inaspettatamente nel 1954 si è innamorato di Bari Vecchia, che ha definito un formicaio ebbro di vitalità. Vecchi cortili sono stanze, vecchie cappelle sono magazzini, una scala sfonda un muro alza la testa oltre il soffitto. Cioè, immaginate la nostra, il nostro quartiere più antico come un grande palazzo, è dato proprio a scoprire ogni angolo della nostra, del quartiere appunto di San Nicola, che poi in realtà è più noto come Bari Vecchia. E lui, e non solo lui, anche Pasolini e tanti altri scrittori sono passati da questa città appunto in tempi non sospetti per visitarla, per ammirarla. Ma lei ci si è ritrovata un po' in questi, no, in queste impressioni che ha trascritto, oppure lì le hanno fatto scoprire qualche punto di vista nuovo? Molto, mi hanno fatto scoprire innanzitutto il lato romantico, come dicevo prima, di Bari, è sentimentale, infatti lo consiglio anche come percorso, Bari come soggiorno, da fare per un breve weekend anche in coppia, o comunque per fare un po' in un ambiente, sì, secondo me romantico, e loro hanno questa visione, vabbè, un po' perché chi non è del posto arricchisce sicuramente col suo punto di vista la storia del luogo. E soprattutto Calvino, ma non soltanto, anche Cortázar, che ha visitato anche lui Bari, che la cita in un libro, in un suo libro, hanno visto appunto questo aspetto più autentico della città, che magari ai baresi sfugge. Perché lo danno per luogo scontate, o perché ci vivono, esatto. Sì, certo. Infatti, per quello che dicevo, se le avevano fatto scoprire qualcosa di nuovo rispetto a quello che normalmente ha in mente come immagine della sua città. Sicuramente sì. Sicuramente. Ma verrà tradotta questa guida anche per gli turisti stranieri? Questo non lo so ancora, anche perché la casa editrice appunto ha investito nell'uscita di questa guida anche in questo momento un po' difficile, più lento, sì, rallentato, quindi da questo noi diciamo che scriviamo, abbiamo scritto anzi una guida, io ho scritto una guida per il turista mezzo inedita, quindi ora stanno editando ancora di più in questo periodo, però non sappiamo se avrà delle traduzioni, sicuramente però immagino, quest'anno potrebbe anche essere molto, è molto italiano ed è giusto, nel senso che dobbiamo, probabilmente non andremo all'estero e quindi riscopriremo la nostra terra, e quindi ci saranno probabilmente tantissimi italiani a Bari. Esatto, infatti il ragionamento che appunto hanno fatto gli editori sfidando la sorte e pubblicando la guida quasi un mese fa. Certo. E poi volevo anche consigliare questa guida agli stessi cittadini della città, o comunque per esempio a tutti i baresi che vivono a Milano, o pugliesi che vivono a Milano, o comunque in altre città italiane, perché io, che ho vissuto per tanto tempo fuori, a Torino, a Siena, in altre città, ho scoperto di appartenere a questa città molto più da lontano che da vicino, quindi magari potrebbe essere un modo per riavvicinare queste persone, anche appunto con un libro, alla propria storia, alla storia personale, quindi non solo alla storia della città. Certo. Grazie Alessandra, allora in grazie bocca al lupo mille. Buon proseguimento, ci tenga aggiornata sui nuovi percorsi per Bari. Alessandra grazie, Minervini grazie. Come dicevamo, autrice di Bari una guida, che è edita da Odos Libreria Editrice. Adesso abbiamo la viabilità. Si può fare. I campioni dello sport, le loro storie e gli autori che le hanno raccontate. Sono Dario Ricci e a luglio vi aspetto ogni domenica alle 16.30 e in podcast a Sfogliando Olimpia, la biblioteca dello sport, per leggere insieme i grandi libri della storia dello sport. Naturalmente qui su Radio 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. L'avevamo promesso all'inizio della puntata e manteniamo la parola data, parliamo di videogiochi in questa puntata. Tu come te la passi con i videogiochi? Io ho ancora in mente la tua immagine, Carlo, a Natale, sì, quando raccontavi di avere questo straordinario gioco con cui facevi anche ginnastica. È vero. Era Fit, una cosa della Switch, se non ricordo male. Ma io in realtà mi piacciono molto i giochi, ma soprattutto è il mio fidanzato che è un vero appassionato, come dicevo prima, sta giocando a The Last of Us 2 ed è molto preso. Io sono un po' più su Tetris e Pac-Man, anch'io, diciamo, sono rimasta un po' lì, troppo la un mia po' età, ossessiva su quel però genere, diciamo, di gioco. Esatto, sono così del paleolitico, ecco. Allora, nel paleolitico invece non vivono sicuramente alla Vigamus Academy a Roma, l'università del videogioco. No, vabbè, ma adesso ne parliamo esatto. Ne parliamo con Marco Accordi Ricards, che è un docente universitario all'Università di Tor Vergata, però è anche il direttore della Vigamus Academy, nonché del museo che ci è collegato, vero? Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Sì, del Museo del Videogioco, che ha aperto nel 2012 a Roma ed è stato uno dei primi in Europa e il primo e unico in Italia. E poi di tutta la parte di formazione in tema videogiochi che noi sviluppiamo sia privatamente sia con le università. Io devo dire che sono molto stupito, perché nel mondo dei videogiochi, di quelli attuali, moderni, che io conosco meno, c'è un incredibile lavoro anche di drammaturgia, di scenografia, di messa in scena, di regia. Quindi il fatto che esista un'università io lo trovo molto giusto, perché veramente ci sono una marea di professionalità, ma altissime professionalità, che si occupano oggi come oggi di videogiochi, che sono sempre più complessi, sempre più delle narrazioni peraltro. Sì, questo poi è specificamente il campo dei miei studi, proprio l'interactive storytelling, come viene chiamato, cioè la narrazione interattiva, perché il videogioco è uno strumento estremamente suggestivo e importante dal punto di vista del raccontare storie, perché mette un ingrediente speciale che è l'interattività. Cioè nel videogioco, a differenza degli altri media, il fruitore è il protagonista, per cui se noi viviamo una storia emozionante, struggente, coinvolgente o divertente, il bello è che noi siamo veramente nei panni dell'eroe che interpretiamo, che poi non necessariamente è un eroe, e abbiamo il peso anche delle decisioni, quindi è molto molto viscerale il rapporto che si crea tra il giocatore e il suo avatar digitale all'interno del videogioco. Verissimo, tanto che in alcune invece produzioni di film o di serie c'è sempre da anni c'è il tentativo di renderlo interattivo, allora si dice usate il telecomando, facciamo che siano gli spettatori a poter scegliere, ma in realtà quelli sono sempre degli ibridi che di solito riescono abbastanza male, e soprattutto tutte le volte che li vedo io dico ma questa cosa già esiste, è già realizzata, sono i videogiochi. Il bello del videogioco è anche questo, è spaziare da una dimensione diciamo più astratta che è fatta sulle dinamiche di gioco che sono espressione comunque artistica e culturale, oppure invece degli esperimenti completamente diversi che sono proprio di storia e di immersione narrativa, e allora lì si toccano tematiche interessantissime. Poco prima della pandemia è uscito un videogioco chiamato Death Stranding di un grande maestro giapponese, Hideo Kojima, che ha letteralmente anticipato quello che stava per accadere, parlando di un mondo diciamo atomizzato nei rapporti sociali che deve essere riconnesso, è stato quasi profetico. Un artista francese di nome David Cage con Detroit Become Human ha raccontato di recente una storia bellissima che ci fa pensare al dramma dei migranti, al tema del razzismo, dell'integrazione, e lo fa in un modo importante perché i ragazzi sono più abituati al linguaggio dell'interattivo, per cui questi messaggi sono molto efficaci quando vengono veicolati dai videogiochi. Ma lei ha l'impressione, infatti, che volevo proprio arrivare a questo punto, che i ragazzi colgano questo aspetto o semplicemente giochino? No? Perché poi dopo l'idea è un conto è usare, un conto è sapere, capire tutta l'architettura che uno ha fatto prima nel costruire il gioco. Io credo che tutti i mezzi espressivi con un valore artistico e culturale hanno una grande carica educativa, anche se non nascono per educare. Anzi, noi solitamente siamo portati a leggere un romanzo, a guardare un film, a sentire della musica perché è qualcosa che ci appaga, che ci dà piacere. Però se questo qualcosa che fruiamo ha un valore, ci arricchisce, al tempo stesso noi impariamo, per cui il videogioco sta maturando ed è sempre più in grado di dare dei messaggi, di toccare la nostra anima e lasciare qualcosa nelle nostre menti al di là del divertimento, perché secondo me il videogioco è letteralmente un'opera interattiva, cioè come il film è un'opera cinematografica, ecco, abituiamoci che anche il videogioco ha questo valore. E in più mi allaccio al discorso accademico, quello che noi facciamo con i corsi di Ligamus Academy per sviluppare videogiochi e con i corsi universitari che facciamo alla Link Campus è di far capire che poi in più ancora il videogioco è anche un'opportunità straordinaria di formazione e di lavoro. Io sono molto d'accordo, soprattutto diciamo sulla domanda che faceva Laura. Io ho la sensazione che molti magari semplicemente giocano, ma i contenuti, siccome appunto sono complessi e sono molto pensati e scritti questi videogiochi, passano un po' sotto pelle i concetti, quindi anche la questione LGBT o la normalità di essere lesbica o il fatto di avere un genitore transessuale per esempio passa sotto pelle, nel senso che nel momento che tu ci giochi per ore, devi comunque seguire la tua avventura, quello diventa accettato, diventa normalità, diventa il fatto anche semplicemente che ti chiedi ah è vero, effettivamente ci sono persone che vivono questa situazione, e quindi sotto pelle, senza la maniera didattica del tipo oggi impariamo che tutte le persone sono uguali, esatto. Uno impara che tutte le persone sono uguali. Però e quindi, questo, scusami Carlo, a maggior ragione fa sì che sia necessario una sorta di controllo sul tipo di messaggio che passa. Certo, certo. Perché è giusto. Allo stesso modo che passa una cosa positiva, puoi anche passare un messaggio totalmente opposto e negativo. Cioè che bisogna curare il fatto che se tu prendi un videogioco che in realtà è l'apologia del nazismo, è quella è l'apologia del nazismo. Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Questi messaggi non devono passare, non sono accettabili. Come ma poi il mondo del videogioco si autoregola, mi corregga se sbaglio, nel senso che mi sembra impossibile che nasca l'apologia del nazismo, perché poi sono dei team multiculturali, quindi è un po' insito in sé il fatto di passare un certo tipo di pensiero, credo. Ma certamente, cioè ormai ci sono tante istituzioni nazionali e internazionali che si occupano di questo, ma poi soprattutto il videogioco deve essere trattato come un mezzo espressivo, diciamo, normale come gli altri, per cui come c'è la tutela e la vigilanza sui libri che arrivano in libreria, sui film che arrivano nei nostri schermi, lo stesso avviene anche per i videogiochi, per cui certi messaggi che sono criminosi sono assolutamente inaccettabili. Però avete perfettamente ragione che adesso il videogioco è uno strumento formidabile per far passare delle tematiche come quelle LGBT che hanno una grande forza, perché nel momento in cui noi vediamo questi esempi con protagonisti in cui ci immedesimiamo, che apprezziamo e viviamo i loro drammi, le loro avventure, beh, insomma, percepiamo un messaggio forte e molto positivo, che forse è ancora più positivo perché noi entriamo attivamente in quelle storie. Lei quanto gioca con i videogiochi al giorno? Guardi, purtroppo meno di quanto vorrei, però cerco di ritagliarmi i miei spazi. Diciamo che settimanalmente cerco di, non lo so, di avere almeno un 5-6 ore. È molto poco in realtà, perché posso dire che è stupendo. Il tempo che si accumula sui social network, per esempio, se vogliamo, è poco. Sì, è vero, però è stupendo, io credo anche per i nostri ascoltatori, sentire un professore universitario che dice: io purtroppo gioco molto meno di quanto vorrei ai videogiochi. Io lo trovo molto bello. Molto questo. Onesto anche. Sì. No, invece così, per i genitori che vedono figli passare ore e ore sui videogiochi, forse stanno studiando, Laura, hai capito? In sì, realtà. No, ma volevo dire, per capire se stanno studiando qualcosa o stanno apprendendo qualcosa, magari chiedergli della storia di questo gioco invece di attaccare dicendo: devi mollare, sono 2 ore che sei lì. Ma bisogna sempre comprendere, cioè il tema, quando si riguarda i minori, il tema è sempre delicato, perché a parte i giochi hanno una loro autoregolamentazione sulle confezioni, per cui se noi impariamo a decodificare il cosiddetto PEGI, che è un'autocertificazione che riguarda i videogiochi, che mostra chiaramente le fasce di età adatte, giuste per ogni videogioco, e anche i tipi di contenuti, cioè se un videogioco contiene violenza, se ci sono contenuti sessuali, cioè questo aiuta i genitori, perché dalla confezione, come una sorta di semaforo, hanno un'indicazione chiara. Però inoltre è sempre importante, secondo me, io parlo sempre di videogioco consapevole, cioè bisogna giocare ma sapere bene, soprattutto se parliamo di figli e di minori, cosa stanno facendo davanti allo schermo. Quindi non bisogna lasciare i bambini e i minori da soli davanti allo schermo come se fosse una babysitter elettronica che cattura la loro attenzione e ci fa stare tranquilli, perché certo questo può accadere, ma è pericoloso perché non tutti i contenuti sono adatti a dei minori, che questo non è criminalizzazione del videogioco, ma è semplicemente fare un discorso logico. È analisi della realtà, certo. Sì, non si farebbero vedere a un dodicenne. Certo. Però sono magari dei grandi capolavori per un adulto. Noi la ringraziamo molto anche di questi avvisi che ci ha dato in coda. Marco Accordi Ricards, come dicevamo, è il direttore di Vigamus Academy e del Museo Vigamus di Roma. Buon proseguimento, buona domenica, alla prossima. Grazie a voi e giocate. Grazie mille e buon joypad. A tra poco, una piccola pausa. Si può fare. Attraversiamo confini ogni giorno, piccoli o grandi momenti che modificano l'arco della nostra vita e ci trasformano per sempre. Attimi che diventano storie indelebili nella nostra memoria. Linee d'ombra racconta proprio quegli attimi, piccoli o grandi episodi della nostra vita che ci hanno trasformato nelle persone che siamo, perché le nostre storie raccontano di noi molto più di qualsiasi presentazione. Raccontare, condividere stralci delle nostre vite è il miglior modo per affermare: ecco, io sono questo. Le linee d'ombra che abbiamo attraversato ci hanno mostrato spazi, luoghi e mondi che nemmeno noi sapevamo di poter abitare. Invia un episodio della tua vita che ha a che fare con un confine e il passaggio di quel confine a lineedombra@radio24.it. Una, massimo 2 pagine. E noi, ogni giorno, ci prendiamo lo spazio e il tempo per raccontarla. Linee d'ombra di Matteo Caccia, dal lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21.30 su Radio 24. si può fare. Cronache da un paese migliore. E dopo aver parlato del Museo dei Videogiochi di Roma, a questo punto andiamo a Benevento per incontrare uno studente che si è appena diplomato presso l'Istituto Tecnico Industriale Bosco Lucarelli, appunto di Benevento. Lui si chiama Boris Zamparano. Buongiorno Boris. Buongiorno. Buongiorno. Ed è idealmente collegato al tema dei videogiochi, nel senso che lui non ha fatto videogiochi, ma ha sviluppato come tesina una app per segnalare i bulli da anonimo. Un po' potremmo dire veramente, ci siamo occupati di adulti che si occupano di videogiochi e poi invece ci sono i giovanissimi che si occupano di cose serie. Esatto, esatto. Vedi che il mondo poi trova sempre un equilibrio, cioè gira, se non le cose si aggiustano. Boris, intanto com'è andata la maturità? Tutto a posto? Finito bene? Sì, tutto a posto. Un po' di tensione inizialmente ovviamente c'è stata, anche perché effettivamente diciamo che non c'è stata, per via del coronavirus, quella cosa di magari vedere i compagni, vedere come si comportano anche i professori, farsi un'idea dell'esame. Quindi i professori in teoria potevano fare a tutti la stessa domanda. Noi non potevamo assistere. Tu sei arrivato con una bella tesina che comprendeva quest'app che antibullo. Beh, tu fai parte di una sezione informatica, giusto? Quindi già eri orientato ovviamente su quello. Sì, come l'hai scelto il tema? Ecco. Praticamente, vabbè, il tema l'ho scelto perché praticamente nella nostra classe, la nostra professoressa Lucia Boscia, che sarebbe la referente per il bullismo del nostro istituto, ci ha presentato diversi, comunque durante l'anno scolastico, ci ha presentato diversi temi sul bullismo. Alla fine, dato che comunque le linee guida dal ministero erano quelle di presentare un elaborato, ho voluto unire queste due cose e fondare qualcosa, creare qualcosa che effettivamente poteva essere utile. Però tutto questo inizialmente era solo un'idea da poter presentare come elaborato e portare una cosa diversa. L'app io l'ho chiamata Mobout, che unisce i termini mobbing ed out. Sostanzialmente l'app è semplicissima, una volta è scaricabile per entrambe le piattaforme, quindi sia per gli Android che per gli utenti Apple, e una volta aperta anche perché sennò sarebbe stata una questione di bullismo, se era solamente per una delle due si partiva già con del bullismo. Esatto. Scusami. No, tranquillo. E praticamente l'utente verrà guidato passo passo durante la segnalazione, quindi nel momento in cui l'apriremo troveremo semplicemente una presentazione e in questa presentazione ci sarà un bottoncino dove noi clicchiamo e andiamo direttamente al form di contatto di segnalazione. Praticamente in questo form troveremo tre campi. Dato che l'app ti permette di inviare le segnalazioni in modo completamente anonimo, c'è anche un campo per il nome. Questo però è facoltativo perché effettivamente ci potrebbe essere qualche ragazzo che dice vabbè, io sono meno timido, posso espormi e voglio magari mettere anche il mio nome, così magari il referente o il collaboratore non so, lo può contattare. È la sezione eroi quella. Esattamente. Se vogliamo, sì. Ma spiegaci, scusami, perché io sono un po' stupido, quindi ho bisogno di capire i tre campi, nel senso che uno scrive Francesco mangia sempre la merenda di Mario, oppure lo picchia perché è di colore. E a chi lo mando? A chi arriva questo? Arriva al dirigente scolastico? Arriva... Allora, prego. Praticamente, una volta inviata la segnalazione, questa segnalazione verrà inviata ad un gestionale dove questo gestionale appunto conterrà tutto il riepilogo di tutte le segnalazioni effettuate. A questo gestionale potranno accedere unicamente i referenti e i collaboratori dell'istituto. Quindi io referente del bullismo o collaboratore dell'Istituto Tecnico Industriale Bosco Lucarelli di Benevento entro nel pannello e vedo che ad esempio Mario Rossi mi ha inviato una segnalazione nel giorno 27 luglio con questa descrizione dell'evento del bullismo. Quindi effettivamente questa cosa serve per dare un campanello d'allarme, perché nel momento in cui il ragazzo effettua la segnalazione Il referente riceve questa segnalazione e dice: attenzione, in quella classe sta succedendo questa cosa. O comunque potrebbe succedere, perché poi mi auguro che nessuno ci voglia scherzare, però insomma ci potrebbe essere anche qualcuno che come bullo segnala in realtà la sua vittima. No, invece secondo me Laura hai molta ragione, questo è un rischio gigantesco. Cioè anche la questione dell'anonimato, mi chiedo, non si rischia di che qualcuno decida per esempio di ingolfare la app mandando 30.000 segnalazioni? Sì, questo è un punto che infatti è un attimino da rivedere, però già ci sono varie idee a cui stiamo pensando per, diciamo, arginare questo problema. Certo. E quindi tu fai questa, insomma, la persona fa questa segnalazione, arriva al referente della scuola, quindi tu immagini un uso all'interno della scuola. E di ogni singola scuola. Certo. Ogni singola scuola, quindi individua il suo referente, se tutti i ragazzi sono in possesso di quell'app possono segnalare nel momento del bisogno. Sì, perché o magari... comunque te la scarichi quando vuoi segnalare. Sì, perché magari potrebbe essere pensata che adesso va un attimo rivista, riprogettata un attimino, per renderla, diciamo, mirata a quel singolo istituto. Perché magari ha delle problematiche. Magari, ad esempio, un ragazzo di Padova fa una segnalazione a Benevento, quindi no, è una certo. cosa un po' distanziata, altrimenti non si capisce bene, si crea confusione. Così su tutti gli atti di bullismo d'Italia finiscono al Ministero dell'Istruzione. Senti, ma secondo te è diretta solo ai ragazzi o anche ai docenti? Perché ultimamente, insomma, abbiamo letto, no, più che ultimamente, diciamo, prima del lockdown, ci sono stati dei casi. Esatto, sì, come anche di docenti bullizzati anche per anni. Effettivamente l'app non è rivolta solo agli studenti, come presentazione generale sì, però chiunque effettivamente può inviare una segnalazione dall'app, non è unicamente per gli studenti, anche per i docenti, per qualsiasi persona che magari si trova all'interno di un'istituzione scolastica, che può essere appunto un docente o non. Certo, può essere anche un bidello. Può certo, essere, ci mancherebbe, giusto. Senti, dici che ci sono alcune questioni da sistemare. Una l'abbiamo detta, ad esempio appunto quella della certezza, diciamo, della segnalazione. Altre questioni che state considerando, credo, la questione della privacy più in generale, che comunque abbiamo da rispettare vari criteri, no, ormai. Sì, quindi. Però effettivamente la privacy da parte di quest'app è già totalmente garantita. Anche perché i dati che vengono inviati, nel momento in cui noi installiamo l'app non richiede alcun permesso speciale o quel che è. Quindi noi semplicemente installiamo l'app, l'apriamo e non ci verrà chiesto nessun permesso. Quindi l'app dei dati del nostro cellulare o quel che sarà non salverà nulla, se non la versione Android, ma quelli comunque sono dati che verranno, che tutte le app richiedono, ma sono, diciamo, delle informazioni generiche che rilasciano ogni casa produttrice degli smartphone. Ok, quindi va bene, ci sono un po' di cose da mettere a punto, però potrebbe presto arrivare sui vari store Mob App, abbiamo detto che si chiama Mobbing Out, che però mobbing non si occupa di out. Mobbing, si occupa di bullismo, che bullying non sono la stessa cosa, giusto? Io allora il mobbing è sul posto di lavoro, diciamo il datore di lavoro che ti mette da parte di modo che tu te ne vada da solo senza che lui ti debba licenziare. Io il mobbing però l'ho visto anche più come una persona all'interno, ad esempio il ragazzo bullizzato all'interno all'interno della classe, che viene preso di mira dagli altri compagni. Quindi secondo me quello è comunque un ci atto... sta, va bene. Ci sta, ci sta. Sì, dai, in senso pensato. Allargato, in senso sì, un po' sì. Più largo. Va benissimo, non ti ritiriamo alla maturità, tranquillo. Vai. Allora, grazie Boris Zamparano, come dicevamo è stato studente dell'Istituto Tecnico Industriale Bosco Lucarelli di Benevento. Buona giornata, buon proseguimento, in bocca al lupo per tutto e per il tuo futuro, nonché ovviamente la tua app. Noi adesso abbiamo la viabilità prima degli ultimi 10 minuti insieme e il premio L'altro pianeta. Si può fare. Promo 24. L'atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara che comporta la progressiva atrofia dei muscoli volontari e il loro indebolimento. Si manifesta per lo più in età infantile, è la prima causa genetica di mortalità infantile, ma può colpire anche in età più adulta. Si trasmette per via ereditaria quando i genitori, portatori di malattia o di geni mutati, trasmettono entrambi la mutazione. Il riconoscimento dei sintomi, dai tremori e difficoltà nella deglutizione alle evidenti difficoltà motorie, gioca un ruolo fondamentale per l'efficacia della presa in carico. Prima è, meglio è. Rivolgiti al medico o allo specialista o visita il sito care.togetherinsma.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Premio L'altro pianeta. Il premio L'altro pianeta di questa settimana lo attribuiamo a un progetto che si chiama, ahimè Carlo, anche qui ci mettono alla prova con l'inglese, Circular Housing Project. Ottimo. Ottimo, vero? Cioè, sì. Fin qua ci siamo. Poi cosa contiene questo casa circolare, giusto? Non lo so, è un'idea anche quella. Dopo il Pentagono facciamo anche il cerchio. Un progetto che è stato che viene presentato e messo in campo da Ecodom, Ridu SGR, Politecnico di Milano, Poliedra, BSH Elettrodomestici, per sviluppare una filiera circolare e sostenibile dell'abitare. Allora, cerchiamo di mettere i puntini sulle i, di capire di cosa si tratta, con Andrea Vecci. Buongiorno. Buongiorno, che per Ridu SGR si occupa dell'area sustainability e communication, e quindi ci comunichi lei che cosa contiene questo bellissimo progetto, perché poi quando lo chiariremo, al di là delle etichette noi ci ridiamo, ma sono sempre un po' complicate, tanto più se in inglese, è un progetto immediato e di cui chiunque credo può vedere il benefico effetto. Però cominciamo con ordine, di che si tratta? Dunque, l'inglese in questo caso in particolare è dovuto perché questo progetto che vi presentiamo è cofinanziato dalla Commissione Europea, da AET Climate Kick, che è la più importante community dedicata allo sviluppo sostenibile e all'economia circolare. Pertanto abbiamo connessioni con anche altri best practice europee, quindi la Commissione Europea vuole vedere come andrà insieme a noi questo progetto. Giustissimo, quindi, insomma, ha fatto bene a spiegarcelo, perché sennò appunto sembra semplicemente che uno lo fa per un vezzo, invece in realtà c'è una motivazione molto concreta, ovvero siamo nell'Europa Unita, abbiamo deciso che c'è un'unica lingua e quella è l'inglese. Quindi ci mancherebbe. Quindi anche in inglese raccontiamo spesso agli altri paesi che cosa consiste questo progetto, che parla di una casa circolare, cioè che adotta una particolare strategia di utilizzo degli elettrodomestici e degli arredi. Partiamo dall'inizio. Noi Redo SGR da tanti anni gestisce il Fondo Immobiliare di Lombardia, che è un primo fondo etico immobiliare dedicato al social housing. Il social housing è un'edilizia che costruisce quartieri, in particolare in Lombardia, e la maggior parte di questi sono stati realizzati da noi a Milano, per una fascia di popolazione che non può permettersi i prezzi di mercato, le locazioni ordinarie, ma nello stesso tempo ha quei redditi un po' più alti che non gli consentono di accedere alle case popolari. I nostri target principali sono i giovani, noi in questo momento abbiamo circa 4.000 persone che vivono nei nostri appartamenti, pensate, la maggior parte dei quali hanno tra i 30 e i 35 anni. Quindi quello che succede nel social housing sono le classiche locazioni a canone moderato o a canone concordato di unità abitative per sé e per la propria famiglia. E spesso questo dalla durata alla breve durata porta a orientare le scelte degli inquilini nell'acquisto di elettrodomestici, mobili, di bassa gamma, spendendo poco, esatto, per spendere poco, perché già ho investito per avere questa casa. Quindi spesso l'economicità fa perdere di vista e considerare i benefici, ad esempio quello del risparmio energetico sul lungo periodo. E poi inoltre pensate che mi perdoni, stiamo parlando di persone in affitto? Sì, sì. Perfetto, sì, sì. Cioè non proprietari di casa. No, no, assolutamente. Perfetto, il social scusi. Housing ha questa vocazione, certo, quella proprio di portare case a basso costo, di fatto in affitto. E quindi in affitto uno potrà stare 8 anni, quindi quella, certo, quell'orizzonte temporale spesso, e anche ovviamente i redditi a cui ci rivolgiamo spesso, fa sì che, come in tanti casi, poi durante il trasloco ci siano la produzione di rifiuti, quindi è stato stimato dal Politecnico che ogni trasloco costa all'ambiente circa 1 tonnellata di rifiuti. Sì, noi insomma, ieri ci siamo messi a calcolare con Danilo Di Trani, ma da dove arrivano tutti questi rifiuti? Ma perché si butta via o sono imballaggi? Sono da 1 tonnellata? Beh, sembra incredibile. Spesso uno dei motivi principali è la non riadattabilità del mobilio. Dei mobili, e esatto. Quindi il letto, il divano, pensate, un divano ha un peso notevole, spesso se anche un divano letto, come capita soprattutto ai giovani di portarsi a casa il tutto in uno. Spesso è anche dell'IKEA, possiamo dirlo. Ecco, e quindi insomma, questo banalmente già un divano letto fa una... Certo, fa magari una cambi, importante. Vai in un posto un po' più grande, finalmente puoi contare su qualche ingresso in più e quindi lasci o butti. E allora il vostro questo... adesso arriviamo al esatto. progetto, perché sennò ci rimangono 5 minuti e non riusciamo a dirlo. No, allora il progetto in questo progetto. Momento è allo studio, stiamo lavorando con i nostri attuali inquilini che collaborano con Poliedra per l'analisi del fabbisogno, e in prospettiva ci stiamo preparando agli inquilini che entreranno in zona Affori alla fine del 2020, individuando 15 famiglie o inquilini pilota che proveranno di fatto ad aggiungere alla locazione anche il servizio di noleggio di arredamenti elettrodomestici che noi vogliamo costruire in modo pienamente circolare, cioè innanzitutto arredamenti elettrodomestici che hanno considerato tutte le fasi del ciclo di vita in modo che sia sostenibile e soprattutto pensato già per la gestione del fine vita del prodotto, che siano di altissima qualità e di alta gamma. Uno dei partner insieme ad Ecodome è Bosch BSH elettrodomestici, che quindi garantisce una qualità, certo, una durata di lungo periodo degli elettrodomestici. Delle cucine che possono vivere 20 anni, 30 anni. Ah, ecco, insomma, la cosa importante è che durino più dei 4+4 esatto, dell'affitto, direi, esatto, perché sennò... L'idea è quella di studiare col Politecnico che se esiste, dovrebbe esistere un prezzo comodo che sia vantaggioso rispetto a comprare mobili di bassa gamma e di fatto noleggiano per il periodo di utilizzo, quindi è il product as a service, quindi io non divento proprietario ma lo uso, anzi alla fine posso anche, diciamo così, d'accordo con il Ecodom, di decidere che cosa succede. Appunto, ma mi perdoni un attimo, nel senso che non è già così nell'affitto. Io sono in affitto e effettivamente gli elettrodomestici sono della padrona, quindi io in qualche modo nell'affitto ho pagato anche l'affitto degli elettrodomestici e dei mobili che ha lasciato, e ovviamente se si guastano lei li riparerà. Non è ecco, così? Non è così diffuso in Italia. No, infatti io vivo una situazione totalmente diversa, pur essendo in affitto. Ah, ok. Sì. Nella maggior perfetto. Parte dei casi il fatto di trovare una casa in locazione già completamente arredata e funzionale in Italia non è così frequente, come invece avviene in altri, certo, in altri paesi. E questo, quindi l'idea sì è di arrivare a questo con degli elettrodomestici, dei mobili di qualità che possano sopravvivere a più inquilini. E in modo da, e poi via via, avendo voi come partner, ad esempio Ecodom, pensare alla rigenerazione, se si dovessero allora, rompere, li prende in carico qualcuno, esatto, al riutilizzo stesso. Quindi con un abbattimento generale non solo dei costi, ma anche poi delle emissioni, di tutto ciò che sta in quell'area. I benefici attesi in termini di impatto ambientale e anche ovviamente di risparmio economico in questo momento sono di dimezzare quello che è l'impatto ambientale normale dei prodotti all'acquisto e di utilizzo di mobili elettrodomestici. Stiamo parlando di 300 kg di CO2 equivalente all'anno rispetto ai 600 kg di CO2 equivalente all'anno. Quindi fa bene all'ambiente, certo, e fa bene anche al comfort. delle persone che a questo punto possono contare su mobili elettrodomestici di alta qualità e anche performanti dal punto di vista del risparmio. Ma essendo che stiamo parlando soprattutto di Milano, fa bene anche al design, visto che io mi immagino a Milano è strano immaginarsi una casa che abbia per 40 anni gli stessi identici mobili, nel senso che fra 40 anni... E dunque, ovviamente il genio e la creatività dei mobilieri, degli architetti, fa sì che ci si possano essere personalizzabili. Dei frame molto stabili e molto durevoli, e magari ci sono degli altri elementi intercambiabili, magari. Modulari intercambiabili. Ci avete pensato? Ma voi pensate un arredamento completo o parte? Per cui magari ti lascio qualcosa e poi stiamo sperimentando diversi bundle, cioè stiamo cercando di capire appunto se dare un arredo completo, quindi con lavatrice, asciugatrice, cucina, eccetera, oppure magari qualcuno dice guarda che la maggior parte dei casi la sala di fatto è già arredata e quindi magari la proviamo a togliere, quindi stiamo studiando diversi bundle appunto a seconda anche di della qualità degli elettrodomestici e dei mobili che uno si porta già in dote. Ecco, ci sembra un ottimo progetto, veramente, complimenti. Grazie mille. Allora, grazie. Vi faremo sapere in futuro poi come finisce. Certo. Vorremmo parlare anche con gli inquilini. Vi stiamo col fiato sul collo, non si preoccupi. Andrea Vecci, grazie per essere stato con noi, Ridue SGR. Noi siamo giunti al termine di questa puntata, di questa domenica registrata, ma vi abbiamo fatto compagnia con notizie e ospiti tutti nuovi, no Carlo? Quindi ringraziamo Danilo Di Trani, Edoardo Lavezzari, Carmelo Lauricella in regia, da Laura Bettini appuntamento alla prossima settimana, e Carlo ci sarai anche tu, vero? Certo che sì, e da Carlo Gabardini ciao, ci sentiamo settimana prossima sabato e domenica alle 8:30. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.